somma da porta picchita va bene. Si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano.